Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Sembra un adulto. Passa il tempo a guardare attentamente in pista i piloti più grandi, senza mai parlare, senza dire nulla di più di quanto serva al meccanico per la sistemazione del go-kart. Si prepara per il turno, guida e al rientro ripete sempre inesorabilmente gli stessi gesti. Lo chiamo, cerco di smollare la tensione. Fede, dai, stai tranquillo, gli dico. Sappiamo che è quasi impossibile, rilassati. E lui mi risponde, papà, vinco io. Sono Livio Sandre, abito a Gorgonzola in provincia di Milano, sono un piccolo imprenditore, una piccola società di telecomunicazioni e la particolarità mia è che ho un figlio che gioca a fare il piccolo pilota, si chiama Federico ed è un pilota di kart. Stamattina, pochi minuti dopo le 9, ero in automobile, che è una cosa che mi capita di rado, perché di solito mi muovo solo su due ruote. Invece ero in auto e a un certo punto l'auto ha cominciato a ballare, anche se a Milano la scossa di terremoto non si è sentita come si è sentita in Emilia. In qualche modo l'abbiamo percepita, e io l'ho percepita perché credevo stesse arrivando un tram alle mie spalle, tanto la macchina ballava. E ho sentito dal GR di Radio 24, perché stavo ascoltando l'autoradio, quello che stava succedendo, e credo che alle 9 ci fosse... C'era Anna Migliorati, o sbaglio, stamattina alle 9, e l'ha percepito anche lei in diretta mentre stava andando in onda. Tant'è, sono sceso dalla macchina, ho fatto quello che dovevo fare e ho saputo realmente quello che era successo 4 ore dopo, quando sono risalito in macchina, e l'ho saputo dal GR della radio. E 4 ore dopo una scossa di terremoto così forte, tu che stai a centinaia di chilometri di distanza, ascolti quello che sta succedendo o lo vedi tramite la televisione o lo leggi su Twitter o sui siti internet. La cosa però che mi viene da pensare, ma quelle persone lì, quelle che sono là, esattamente in quei posti lì, Modena, Carpi e tutte quelle zone, in questo momento, cioè 5, 6, 7 ore dopo quello che è successo, cosa stanno facendo? E quindi, visto che noi raccontiamo storie e continuiamo a fare questo, semplicemente perché o lo facciamo o non lo facciamo, cioè o c'è uno speciale parla del terremoto o altrimenti noi continuiamo a raccontare queste storie, e quindi lo facciamo anche per quelle persone. Se però quelle persone in questo momento stanno ascoltando la radio e magari sono in cortile o sono su un'automobile o ovunque si trovino in questo momento, mi piacerebbe sapere dove sono e cosa stanno facendo ora alle 16:11 a 7 ore di distanza da quella scossa. 349 238 6666, se per caso avete un computer per le mani, forse è difficile, però c'è un profilo Facebook e un profilo Twitter del programma Matteo Caccia, io sono qui, o VSQR24. Ripeto, semplicemente dove siete, sentivo di persone che erano sedute sulle sedie fuori dalle case o nei cortili, perché poi le notizie arrivano sparse, no? Da amici di amici o da qualche inviato in giro in quelle zone. Dove siete e cosa state facendo? 349 238 6666. La storia di oggi parla d'altro, parla chiaramente di una storia che è arrivata tempo fa, credo prima di Natale, ormai il cumulo di storie che arrivano, e continuate a mandarle. La cosa che mi chiedono alcuni è tardi per mandarle storie perché manca un mese? Assolutamente no, perché la stagione prossima noi continuiamo, chiudiamo il 30 di giugno, ma con il 19 c'è il live che più o meno saluta la stagione. Tra l'altro, per iscrivervi andate sul sito radio24.it, in basso a destra nella home page c'è la mia faccia, ci cliccate e compilate il form. Ripeto, noi chiudiamo il 30 di giugno, ma l'anno prossimo ricominciamo, quindi continuate a inviare le storie. Voi siete qui, @radio24.it. La storia di oggi è la storia di un bambino, siamo abbastanza carichi di storie di bambini, è raccontata dal padre però, ed è la storia di un bambino che è come se ormai a 10 anni sapesse già che cosa vuole fare, che cosa sa fare nella vita. Lui è un piccolo campione, continua a vincere, l'ho visto prima sul suo sito, è un piccolo campione e corre sui go-kart. Federico è un bambino di 8 anni, piuttosto introverso e anche maldestro. Di quei tipi ai quali non daresti 2 lire, che inciampano sui propri passi, rovesciano l'acqua a tavola, ai quali cade la roba di mano e che balbetta anche un po'. Trova e trasforma la sua personalità a bordo di un go-kart, sul quale sembra essere sempre andato fin da vite precedenti. Durante la sua prima stagione colleziona subito numerosi successi e piazzamenti, rivelando il suo talento, ma soprattutto la sua determinazione. Non lascia mai nulla al caso, studia tutto nei minimi particolari. Non è raro vederlo in tribuna guardare le altre categorie in prova, anziché lasciarsi andare a partite di pallone o gare in bici nel paddock, cosa consueta agli altri pilotini. Tutto questo lo porta all'ultima prova di campionato in seconda posizione, a 9,5 punti dal primo in classifica. Il sistema di attribuzione dei punti è complicato, ma per farla breve, per vincere il campionato deve fare la pole position, vincere tutte e tre le manche in programma e staccare il miglior tempo in gara 3. Noi ci proviamo. Qualche anno fa io ho gestito per un breve periodo un'attività di noleggio kart in una pista e lui quindi aveva modo di essere sempre presente, così ha cominciato ad appassionarsi e all'età di 5 anni ha voluto provare, l'abbiamo fatto provare, abbiamo visto che era abbastanza prudente, quindi si poteva lasciarlo girare, quindi così ha iniziato, diciamo, questa sua esperienza, ecco. Partiamo in direzione Jesolo, sede della pista internazionale di kart. Sul camper, durante il viaggio, diversamente dal solito, si parla poco. Mentre io e mia moglie cerchiamo di allentare la tensione, facciamo qualcosa, ma non si riesce, è inutile. La gara per Fede è iniziata sul pianerottolo di casa. Per tutto il weekend, Federico si immerge in uno stato di concentrazione quasi paranormale. Durante i turni di prove libere, è sempre determinato. Rientra ai box, dice cosa non va del suo mezzo, poi si allontana e si siede su una sedia al bordo della pista. Sembra un adulto. Passa il tempo a guardare attentamente in pista i piloti più grandi, senza mai parlare, senza dire nulla di più di quanto serve al meccanico per la sistemazione del kart. Si prepara per il turno, guida e al rientro ripete sempre inesorabilmente gli stessi gesti. Lo chiamo e cerco di smollare la tensione, gli dico: Fede, stai tranquillo, sappiamo che è quasi impossibile, rilassati. E lui mi risponde: papà, vinco io. È più facile che per assurdo si facciano male nel paddock facendo le gare in bicicletta tra piloti piuttosto che in pista. Chiaro che gli incidenti li fanno, tante volte gli scontri sono anche abbastanza duri, ma appunto hanno delle protezioni importanti addosso e quindi tutto avviene non in assoluta, ma quasi in assoluta sicurezza. La domenica mattina è tempo di qualifiche, ma qua la pioggia sorprende tutti. Lava la pista e lascia spazio al sole. Ora inizia il difficile, gomme da asciutto o gomme da bagnato. Se sbagliamo è già finita. Decide Federico, gomme da asciutto. Nei primi minuti con la pista libera, Federico abbassa il tempo giro dopo giro, ma alle spalle c'è il primo in classifica. Non molla e riduce i decimi di distacco. Ora Federico è nel traffico e la pista è libera per l'avversario. Si avvicina alla pole, ma alla fine la spunta Federico. Ok, il primo passo è fatto. La pole e i due punti sono nostri. Ora è necessario vincere la prima manche. Partenza regolare. I due si allontanano dal gruppo come fossero un mezzo solo. Pochi centimetri li separano. Federico è in difficoltà, percorre traiettorie di difesa che lo rendono inesorabilmente lento, ma con grande freddezza riesce a rintuzzare tutti gli attacchi. È photo finish, la spunta lui. Le altre due manche si svolgono tutte allo stesso modo, con la tensione di partire per tre interminabili gare fianco a fianco, sempre davanti, con una spina dietro però, che cerca ad ogni metro di passarti sopra. Dopo due ore le gare sono finite, si rientra in parco chiuso. Manca il verdetto della telemetria per verificare il giro veloce. Il giro veloce è di Federico per 5 centesimi di secondo. Federico è campione italiano 2010 di kart, il più giovane pilota titolato nel 2010 in una categoria motoristica italiana. Lui lo sapeva, noi no. Quando corre Nuvolari mette paura perché il motore è feroce, mentre taglia ruggendo la pianura. Gli alberi della strada strisciano sulla piana, sui muri cocci di bottiglia ci sciolgono come poltiglia, tutta la polvere spazzata via. La storia di Federico mi ha ricordato quella di tanti campioni di cui ho letto la biografia. Quasi tutti i grandissimi dello sport hanno immagini o video che li ritraggono mentre tirano i primi calci o danno le prime pedalate. Per cui c'è il piccolo Messi che scarta tutti e va in porta, il baby Schumacher che ha in mano un minuscolo volante. Tutti quelli che da grandi sono eccellenti, da piccoli sono stati dei prodigi. Che è una cosa bellissima perché ti riempi di fiducia e ti fa sentire migliore degli altri. ti dà tanta confidenza e ti toglie dall'impaccio di dover dimostrare sempre che vali qualcosa, perché c'è quella cosa lì dove nessuno discute che tu sei il più bravo. Quando ero molto giovane, qualche anno fa, c'era il Maurizio Costanzo Show, che era una specie di fiera di personaggi più o meno illustri, una specie di freak show, e ognuno di questi aveva una sua ragione di esistere. E Costanzo era capace di parlare con tutti come se sapesse di cosa stesse parlando, con tutti. Era una specie di tuttologo. Il tuttologo è una figura che in certi anni è diventata importante, gente come Beniamino Placido, come Roberto D'Agostino. Che uno dei modi per dirlo è che fai il giornalista, e l'altro è che non sai fare niente di preciso, ma sei un gran chiacchierone. A me piacciono i tuttologi. Nella vita siamo tutti un po' così. Perché possiamo avere a che fare con tante persone diverse e cercare lavori differenti ed essere anche più interessanti per le ragazze, quello è sempre uno dei tentativi. Se io avessi una sola passione avrei paura di dover a che fare solo con persone che condividono quella stessa passione, che magari sono poche e magari sono noiose. Ma allora saper fare benissimo una cosa sola, cioè avere una passione smisurata e unificante, è una fortuna o è una condanna? Io sono sicuro che Federico sia un bambino felice, se no suo padre non l'avrebbe portato come esempio. E sono certo che sia capace di giocare con tutti gli altri bambini, di leggere, di divertirsi al cinema e chissà quante altre cose. Solo che faccio fatica a pensare a cosa faccia quando non guida o non controlla la telemetria. Anzi, adesso che ci penso io, Federico me lo immagino solo sul kart, con il casco e lo sguardo lucido. Però non riesco a immaginarmelo in nessun'altra situazione. Cioè, per esempio, a scuola, mentre ascolta la lezione o parla con la maestra, o mentre fa l'intervallo con la merendina che si è portato da casa, oppure all'oratorio in mezzo agli altri a giocare a pallone o a fare il buffone con le ragazzine, o al mare in spiaggia cercando di fare castelli di sabbia mentre la mamma prova a mettergli la crema per non farlo scottare, o anche solo nel salotto di casa, davanti a un gioco o a un cane, o in quelle situazioni tipiche dei bambini di 8 anni. Ecco, io spero che non sia solo tutto casa e go-kart, perché quelli come lui, quelli come Agassi ad esempio, che erano tutti albergo e racchetta, poi alla fine hanno fatto fatica a vivere sereni in mezzo alla gente quando la racchetta la dovevano appoggiare. Gonna have a fake mustache, gonna try my luck in the clouds. My heart's getting used to this whiplash. I'm letting go. Side of green pastures wait for me there. There's a tiger asleep in my bedroom. Mi scrive, non so chi perché non si firma, dopo una giornata orribile sono con mamma Loredana e mia sorella Cecilia a comprare le scarpe, almeno ci si distrae un po'. Un bacio a tutti quelli in difficoltà. Sto andando a Bologna a insegnare danza, scrive Cristina, la casa ha retto, sono viva, si va avanti. Questa mattina stavo caricando il camion a Modena, scrive Romano, alle 9 ti assicuro è stato terrificante, un boato e il capannone che tremava. Ora sono a Imola, immagino sul camion. E poi ancora, ciao Matteo, io abito a Comacchio, ho sentito la scossa, sembrava non finisse mai. Ero preoccupata perché sono a letto per motivi di salute. Ora per fortuna ci sei tu. Beh, Loredana, spero che la fortuna sia soprattutto un'altra, che ci sei tu più che altro con il tuo bellissimo programma. Grazie di cuore Loredana, grazie a te Loredana. E poi mi scrive qualcuno addirittura prima del programma: non conoscevo il piccolo pilota gorgonzolese Federico, questa puntata l'ascolterò con piacere. Lorenzo da Gorgonzola. E allora sentiamo direttamente il babbo che è al telefono con noi. Pronto Livio? Sì, pronto. Ciao, come stai? Sì, bene, grazie. Senti, Federico come sta? Federico sta bene, è un po' stanco perché sul finire della scuola, insomma, sono agli ultimi e quindi sono un po' stanchi tutti i bambini adesso. Comunque sta bene. Senti Livio, purtroppo non abbiamo tantissimo tempo perché poi c'è uno speciale sul terremoto e quindi volevo fare due chiacchiere velocemente, però con te e soprattutto su Federico, perché io mi sono appassionato alla sua storia e ho visto un articolo di recente, ha vinto di nuovo, domenica. Sì, guarda, in realtà è stato 3 settimane fa, ah, okay. È riuscito a vincere, era partito un po' male in campionato perché aveva buttato via una gara, tra virgolette, e quindi non essendoci scarti era un po' messo male, invece poi domenica è riuscito, diciamo, a vincere, a riprendersi un po' la testa del campionato, adesso diciamo nell'ambito del campionato Mini Academy, che è quello che fa lui, adesso è in testa. Quindi. Ma i suoi avversari quanti anni hanno più o meno? Ma allora, il range di età va dai 9 ai 13, 12-13, diciamo che le categorie si accavallano. Quindi lui ha gente più alta di lui di 2 anni anche? Sì, sì, ecco, l'anno scorso infatti è stato, diciamo, la sorpresa vederlo già abbastanza avanti. Quest'anno ha un po' più di peso sulle spalle, perché tutti si aspettano grandi cose, quindi l'anno scorso era tutto più facile. Certo, quest'anno invece non è più un outsider, insomma. Esatto, quest'anno ha un po' più di peso psicologico addosso, però insomma sembra che lo regga abbastanza bene. Senti, scusami Livio, per un papà e una mamma avere un figlio così, non ti intimorisce quasi avere un bambino così serio, così determinato, così forte già in qualcosa a quest'età? Sì, allora è abbastanza impegnativo dal punto di vista proprio del tempo, da dedicare, sì, eccetera. Dopodiché lui è un bambino abbastanza introverso, un po', sì, è molto determinato, quindi ha un po', diciamo, una doppia personalità, è timido e introverso, e poi quando scatta, insomma, esplode, ha una specie di interruttore 0-1 da qualche parte. Senti Livio, farà il pilota da grande? Ma non lo so, vedremo, insomma, per adesso ci divertiamo così, facciamo quello che viene. Va bene, Livio, ti ringrazio moltissimo, devo lasciare la linea a Simone Spezia, salutami Fede e fagli in bocca al lupo. Grazie mille, ciao, buona giornata. Voi siete qui, voi siete qui, voi siete qui, voi siete qui, voi siete qui. Livio è con il figlio Federico, Federico è con il papà Livio nella foto che ci ha mandato Livio, che trovate sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi Siete Qui. Sono su una pista, chiaramente, Federico è in tuta da go-kart, da pilota vero e proprio, e anche, vabbè, il casco è un casco serissimo, ma anche quella protezione per il collo che mettono i piloti di Formula 1, un mini pilota di Formula 1. E papà Livio invece sembra un macellaio, perché ha su dei guanti e un grembiule nero. Ma ce l'hai, ce l'hanno bianco, tant'è, sembra un cameriere, gli sta dando una mano a sistemare il casco probabilmente, e sembra che Livio sia intento a fare qualcosa, mentre Federico abbia proprio lo sguardo che descrive al padre nel suo racconto, lucidissimo verso il traguardo. Qualcuno mi scrive, tra l'altro, sul profilo Facebook Matteo Caccia io sono qui, mi mette il link dicendomi è lui, e il link è giusto, sì, perché Federico ha un profilo Facebook tutto per sé in cui ci sono i video, le foto, andate a vederlo perché è divertente e anche un po' impressionante per certi versi, perché ha veramente quella lucidità che hanno quelli che sanno cosa vogliono fare. E a proposito di quelli che sanno cosa vogliono fare, per cui è subito presto ed è subito tardi per tutto, a breve vi leggo un brano finalmente di David Foster Wallace. Quando dico finalmente, quando posso leggere una roba di Foster Wallace sono felicissimo, che è tratto da un suo saggio e parla di un tennista in quel caso, ma tant'è. Sono arrivati messaggi dall'Emilia Romagna, dalle zone colpite dal sisma di cui vi ha appena parlato Simone Spezia. Elisabetta, sono sotto il sole dell'orto di casa mia, soddisfatta anche se fosse il mio ultimo giorno. E poi ancora, sono Claudio, un allevatore di Cremona, quindi a Cremona, insomma, non è la zona che è stata colpita dal terremoto, però mi dice, stanotte ho munto le vacche e poi sono andato nei campi per seminare il mais prima che piova giovedì. So che è inutile, ma sentendo le news mi sento in colpa, perché sono così impegnato e così impotente. Tant'è Claudio, ciascuno fa il suo, o se proprio non riesce a fare il suo va a dare una mano e fa anche quello degli altri. Dopo la scossa del 20 di maggio era distrutto il mio magazzino. Nel weekend sono riuscito a traslocare l'azienda. Con quella di questa mattina è crepata anche la struttura dove ho traslocato. Ora la disperazione è abbastanza alta. Poi ancora Barbara invece mi ha scritto sul profilo Facebook e mi dice: questa mattina alle 9, mentre scrivevo, prima il cuore, poi la mano, la sedia e il tavolo hanno tremato. E pensare che all'inizio ho pensato che fosse emozione. Sono un calligrafo di Bologna. Da giorni siamo impauriti, indifesi, siamo come dei bambini. Il terremoto fa davvero paura. Mia figlia Frida è andata a studiare con i compagni di classe in un prato. E poi, come non poteva mancare, Giampaolo da Zocca, che continua a dire Zocca c'è, qui si è sentito tutto, ma fortunatamente non ci sono danni. Tra l'altro, devo dirlo ufficialmente a Giampaolo, forse, perché non gliel'ho ancora detto, che il tour non ne abbiamo più parlato perché non c'è ed è sostituito dal live del 19 giugno, di cui vi parlo a breve anche più tardi. E poi ancora Simonetta, Sono a Bologna, me l'ha scritto però con un, su Facebook, quindi evidentemente ha uno smartphone. Sono a Bologna seduta su una panchina e sento ancora le gambe che tremano. 349-238-6666, se avete voglia di raccontarmi dove siete dopo che avete sentito il terremoto questa mattina e se non potete entrare in casa, perché come sentivamo prima dalle testimonianze telefoniche, anche le case che sono considerate agibili comunque fanno paura, insomma fa paura quando la roba ti trema intorno e ti crolla tutto addosso. Voglio però leggervi questo pezzo, che non c'entra con i go-kart, non c'entra chiaramente col terremoto, va avanti sul tema di oggi, che è quello di svegliarsi presto, cioè scoprire molto presto nella propria vita che cosa siamo in grado di fare, che cosa ci piace fare e quindi che cosa vogliamo fare. Adesso non so qual è l'ordine di questi addendi, se prima è cosa ci piace, cosa siamo in grado e quindi cosa vogliamo fare. È sicuramente il caso di Federico ed è sicuramente il caso dei tennisti che arrivano, di tutti i grandi campioni che arrivano anche non ai primi posti ma che si classificano. È il caso di Michael Joyce, che racconta ed è raccontato da David Foster Wallace. A prescindere dal fatto che finisca o meno nella top 10 del tennis mondiale e che diventi un nome conosciuto da tutti, Michael Joyce resterà per me una figura dal fascino duraturo e paradossale. Le restrizioni imposte nella sua vita sono state, secondo me, grottesche. E per certi versi Michael Joyce è grottesco. Ma la radicale compressione della sua capacità di concentrazione e della sua personalità gli ha permesso di praticare un'arte a un livello di trascendenza, qualcosa a cui pochi di noi arrivano. Gli ha permesso di visitare e mettere alla prova luoghi della sua psiche che la maggior parte di noi non è nemmeno sicura di possedere. E di manifestare concretamente virtù come il coraggio, la resistenza al dolore e alla fatica, e le capacità di rendimento in condizioni di continua osservazione e di pressione schiacciante. Michael Joyce è, in altre parole, un uomo completo, anche se in maniera grottescamente limitata. Ma vuole di più. Non maggiore completezza. Non pensa in termini di virtù o di trascendenza. Vuole essere il migliore. Vuole che il suo nome sia famoso. Vuole sollevare trofei da professionista sopra la sua testa, voltandosi pazientemente in ogni direzione verso i fotografi e le telecamere. È un americano e vuole vincere. Questo vuole. Ed è disposto a pagare per ottenerlo. Disposto a pagare semplicemente per perseguire questo scopo, per lasciare che tutta la sua vita ne sia definita. Ed è disposto a pagare con la gioia senza rimpianti di un uomo per cui il problema della scelta è diventato irrilevante molto tempo fa. Per Joyce, a 22 anni, è già troppo tardi per qualunque altra cosa. Ci ha investito troppo, c'è dentro fino al collo. Penso che sia tanto fortunato quanto sfortunato. Lui vi dirà che è felice e dice sul serio. Augurategli buona fortuna. Lo chiedono già alcuni chiedono se c'è ancora posto per prenotarsi per il live del 19 di giugno, è un martedì, è alle 21 ed è gratuito. La risposta è sì, il posto c'è ancora e per prenotarsi è molto semplice. www.radio24.it, andate in basso nella home page, la scorrete tutta, trovate un boxino con la mia faccia, è live 19 giugno, voi siete qui. Ci cliccate sopra e vi si apre una pagina dove dovete compilare delle cose, dovete mettere il vostro nome, il vostro cognome, vi chiediamo quali sono i vostri programmi preferiti della radio, insomma un po' di informazioni per migliorare il servizio, si dice così. Vi stampate lo inviate, lo stampate e vi presentate con questo foglio, con questa stampa la sera del 19. La sera del 19 è noi lo chiamiamo live per semplificare, e in sostanza è una festa in cui noi che abbiamo fatto il programma, io, Tiziano, Stefano, Federico, spero anche, Paolino Corleoni, Margherita, organizziamo una sorta di festa per voi. Leggeremo, rileggerò le migliori puntate, quelle che voi avete votato. Se andate sulla pagina di Voi Siete Qui, sulla home page, perdonatemi, della radio, di Radio 24, vi si apre anche una pagina per poter votare il miglior racconto. Ecco, semplicemente è una festa, veniteci, è tutto gratis e speriamo sia divertente. Grazie a tutti, la storia di oggi era la storia di Livio e parlava dell'essere campioni, quella di domani è di Fabrizio e parla del circo. Dopo qualche settimana non mi faccio neanche più domande e mi lascio cullare dai rumori e dalla poesia dello spettacolo sotto il tendone. Mi lascio avvolgere dal fascino della contorsionista e dalla grazia dei cavalli. Mi diverto a fare la regia delle musiche o a dirigere il faro nel cavo che il trapezista percorre con coraggio.